Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti. Per tante spread a parte, le vacanze sono ormai alle porte, per alcuni forse sono già passate, ma una cosa è certa: gli italiani continuano, nella maggior parte dei casi, a scegliere l'auto come mezzo di trasporto per i propri viaggi estivi, che siano in famiglia o che siano con amici. Certo, i mesi di crisi per tanti avranno anche ridimensionato i progetti, avvicinato le mete, ma che la durata della vacanza sia più o meno lunga o la distanza più o meno impegnativa resta ugualmente importante partire sicuri, che la propria vettura rispetti tutte le regole e che soprattutto appunto sia sicura. Questa mattina a Salva Danaio facciamo il punto sul da farsi per il check-up della nostra autovettura. Snoccioleremo consigli, speriamo preziosi per tutti voi, da tenere a mente nel momento dei preparativi, e vedremo anche come cercare di risparmiare, e ci viene subito alla mente naturale la questione dei carburanti. Questo è l'anno dei grandi aumenti della benzina, prevalentemente per colpa delle accise in Italia, non tanto per l'andamento delle quotazioni appunto del greggio sui mercati internazionali, ma è anche l'estate degli sconti. È quasi sicuro che il mese di agosto inizierà nel suo primo weekend, a meno che non venga scongiurato nelle prossime ore, con uno sciopero dei benzinai, e quindi non potremo non ne parlare anche di questo. Tanti gli esperti che ci accompagneranno in questa puntata, in cui vogliamo però anche raccogliere le vostre domande, le vostre osservazioni, come sempre all'800 24 00 24, ma anche, se vorrete condividerle con noi, le vostre buone pratiche, quelle che avete già messo in atto nella cura della vostra automobile, tema molto caro soprattutto agli uomini di casa, perché quando si parte per le vacanze le donne hanno altri impegni, quello di preparare la valigia in primo luogo, magari così pianificare certi aspetti della villeggiatura, mentre per l'uomo c'è l'impegno di far sì che l'auto sia in ordine, per l'appunto. Allora, viaggerete in auto per le vacanze 2012? Avete già fatto tutti i controlli del caso sulla vostra vettura? Quali accorgimenti metterete o state mettendo in atto per non incappare in imprevisti spiacevoli e soprattutto non spendere troppo? Raccontatecelo al numero verde. Ci potete anche scrivere alle 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andarvi a divertire anche sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Con noi questa mattina un ospite che, diciamo che in questo periodo dell'anno, disturbiamo in maniera ricorrente: Fabio Bertolotti, direttore di Assogoma. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Tra l'altro, proprio qualche giorno fa l'associazione ha presentato i risultati del consueto monitoraggio in questo periodo vacanze sicure, che viene condotto con la polizia stradale. Si mettono in campo tutti i controlli dei pneumatici delle auto in circolazione sulle strade ed autostrade, e anche quest'anno sono state riscontrate tante sorprese. Poi ce le racconterà il dottor Bertolotti. Antonio Miele sentiremo, presidente di Confartigianato Autoriparazione. Poi sentiremo, anzi forse ce l'abbiamo già collegato telefonicamente, sta arrivando, per spiegarci le ragioni di questa agitazione fra i distributori di carburante, Luca Squeri, presidente della FIGISC, che è la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali di Carburanti e la organizzazione sindacale aderente a Confcommercio. E poi, se volete andare a caccia di risparmio e cercare anche il distributore di benzina più conveniente e più appunto conveniente, più vicino a casa vostra, c'è un'applicazione, ce ne sono tante. Oggi conosceremo prezzibenzina.it, più tardi sentiremo Paolo Rigamonti, amministratore delegato di questa società. Allora, un'occhiata rapidissima alla borsa che in questo momento a Milano è assolutamente priva di colore, perché il FTSE MIB non va né da una parte né dall'altra. Stamattina ha avuto anche un guizzo positivo, arrivando a guadagnare circa lo 0,7%, poi ha rallentato il passo. È proprio una settimana interlocutoria, direi, ma più che altro difficile, perché ricordiamo come si è chiuso venerdì, quali sono state anche i tenori delle chiusure di lunedì e martedì. Ieri e oggi a quanto pare un po' meglio, ma in ogni caso il quadro è ancora piuttosto incerto. Francoforte perde lo 0,8%, Parigi meno 0,11%, Londra meno 0,25%. Francoforte risente del fatto che Moody's ha preso anche a cambiare i suoi giudizi su questo paese, quindi probabilmente anche la signora Merkel sarà disorientata da qualche ora a questa parte. L'ultima novità è che Moody's, dopo aver rivisto e ridotto l'outlook sullo Stato tedesco a causa delle incertezze nella zona euro, oggi ha fatto sapere di aver ridotto da stabili a negative le prospettive di 17 banche tedesche. Poi Moody's è intervenuta anche sulle prospettive dei debiti garantiti dall'Olanda, quindi gli stati più solidi sono comunque nel mirino delle agenzie di rating, e quindi insomma questo piccolo contagio europeo sta intaccando anche gli stati, appunto le nazioni più dal punto di vista dei conti pubblici più solidi, come vi dicevo. Un'altra notizia che stamattina ha disturbato un po' il mercato: Citigroup, una delle più grandi banche americane, ha annunciato di ritenere probabile al 90% un'uscita della Grecia dall'eurozona nei prossimi 12-18 mesi, e quindi insomma si guarda anche questo. Citigroup non è nuova a previsioni così clamorose e oggi però insomma l'ha confermata. Adesso c'è uno scatto improvviso con il FTSE MIB che sta facendo più 0,8%. Cosa sia successo negli ultimi 10 secondi non l'ho capito. C'è questa dichiarazione di Mario Draghi, presidente della BCE, che proprio un istante fa ha detto: l'eurozona è molto più solida di quanto si pensi. E forse Piazza Affari è anche contenta del fatto che l'asta di CTZ che era prevista per questa mattina è andata bene. È stata una domanda molto robusta quella di questi titoli di Stato italiani venduti per 2,5 miliardi. Tassi in leggera crescita rispetto all'asta del mese scorso, ma senza aver preso il volo. Il rendimento per i CTZ che scadono nel maggio del 2014 sono stati appunto al 4,86% dal 4,71% del mese scorso. Direi che possiamo lasciare la borsa per adesso e andare al tema di oggi. Naturalmente vogliamo anche molte delle vostre testimonianze. Allora noi oggi parleremo di come partire per le vacanze con l'auto assolutamente in ordine. Magda, per l'amor di Dio, fermati! Ma scusa, Furio, ma che cosa ho fatto? No, non si dispongono i bagagli dentro una macchina così. Tesoro, quando compi queste operazioni devi sempre tener presente di dover comporre un mosaico. Ogni cosa deve combaciare con l'altra. Deve essere come un puzzle, né più e né meno. Su, bambini, salite, venite qua. Anton Giulio, vai al posto d'Anton Luca, e te, Anton Luca, vai al posto d'Anton Giulio. Perché c'è un leggero squilibrio. Questo è già un assestamento più accettabile. D'altro canto, la perfezione appartiene solo a Dio, per carità. Senti, tesoro, allora, vediamo un po'. Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Sì. Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Sì. Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa? Sì. Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Sì. Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino. Sì. Perfetto. Sì, possiamo anche interrompere questo brano di un film famosissimo. Anche Fabio Bertolotti sorrideva, lei se lo ricorda naturalmente. E come no, è mitico. Mitico film. Bianco, rosso e verdone, con appunto queste gag continue fra questi due coniugi. La povera Magda che viene sottoposta ad ogni tipo di richiesta assurda da parte del marito Furio. E però insomma tutte le riflessioni, anche se pittoresche, fatte sull'auto in ordine, non sono poi così fuori luogo quelle appunto di Furio, soprattutto sulla disposizione dei bagagli in auto. Se viene fatta correttamente, anche questa buona disposizione permette all'auto di far consumare meno. Detto questo, Luca Squeri, presidente di Figisc, buongiorno, ci sente? Buongiorno a voi, vi sento bene. Eccoci, allora dopo essere andati al cinema per qualche istante con Carlo Verdone, direi invece adesso di sentire quali sono le ragioni del vostro sciopero. Per la verità, inizialmente previsto in 3 giornate, poi limitato a 2, 4 e 5 agosto, per insomma il fine settimana sarà un po' problematico per tutti coloro che partiranno in questo primo grande esodo, probabilmente per le vacanze estive 2012. Allora, voi l'avete confermata al momento la serrata d'agosto, so che venerdì vi incontrerete di nuovo al Ministero dello Sviluppo Economico con le compagnie petrolifere. Ci ricorda le ragioni di questa agitazione, soprattutto se ci sono i presupposti anche per rinviarlo oppure annullare appunto questa vostra serrata nella giornata in cui peraltro oggi è prevista quella delle farmacie, della quale abbiamo già lungamente parlato ieri. Squeri. Sì, i motivi sono principalmente due. Uno è nei confronti delle compagnie petrolifere per il rinnovo degli accordi economici e per la cessazione di iniziative discriminatorie che mettono in grandissima difficoltà i gestori in un momento così negativo dei consumi e dell'andamento dell'economia. L'altro è rispetto al mondo bancario, perché a fronte di una legge che aveva reso gratuito l'utilizzo delle carte di credito presso gli impianti di benzina, non solo per i gestori ma anche per gli automobilisti, per cui dateci il merito di aver annullato i costi per gli automobilisti, e viva per gli automobilisti. Per i gestori invece c'è stata la bruttissima sorpresa che, fatta la legge, trovato l'inganno, il sistema bancario non fa più pagare le commissioni sulle singole transazioni, ma un affitto mensile sulla macchinetta POS, per cui abbiamo, oltre la beffa, il danno, perché il costo complessivo addirittura aumenta. Ecco, quindi praticamente, adesso mi passi il termine, non vuole essere così negativo, ma mentre prima in sostanza c'era la commissione bancaria che veniva scaricata sul consumatore, adesso questa nuova applicazione da parte del sistema bancario ve la dovete sopportare solo voi, no, senza nessuna possibilità di scaricare. Non è esattamente così. No? Prima il costo era un po' per l'automobilista, era lo 0,75, era mezzo euro. Sì, 77 euro, centesimi, no? Mi ricordo. In più i gestori pagavano la commissione fino anche all'1%, che l'1%, tenga conto che il nostro margine è di 4 centesimi, l'1% di 1,08 euro è metà del margine, per cui noi prima pagavamo anche noi enormemente, e anche l'automobilista. La nuova legge ha impedito questi costi, per gli automobilisti è rimasta, per i gestori hanno fatto questo inganno, questo aggiramento, per cui non si paga più la commissione, si paga l'affitto della macchinetta. Quanto vi costa, tra l'altro, questo affitto? Dipende dalle operazioni che si fanno da parte dei consumatori, oppure c'è un costo standard, che dipende da che cosa? Guardi, la domanda è molto legittima e molto puntuale, perché in realtà noi non sappiamo più, mentre prima c'era una percentuale, perlomeno si sapeva, anche confrontandoci, 0,5-1%, adesso l'affitto mensile è fatto su criteri che non si possono nemmeno confrontare e controllare, per cui siamo veramente in una situazione inaccettabile, dove una legge del Parlamento è stata aggirata. Allora, lei ci spiegava prima che tra le altre motivazioni che vi porteranno a questa agitazione alla serrata dei benzinai, che peraltro ci sarà su tutto il territorio nazionale, anche in autostrada, square, ovunque? È previsto su tutto il territorio nazionale, esatto. Ecco, lei ha detto prima c'è anche questa necessità da parte vostra di portare l'attenzione sulla... lei ha parlato prima di discriminazione relativa agli sconti, la riporta questa frase anche il Sole 24 Ore, appunto spiegando le motivazioni della vostra agitazione. A che cosa vi riferite? A questa super iniziativa di Eni, Riparti con Eni, che è stata lanciata da poco e che ha creato grande scompiglio appunto nel mercato tra voi operatori del settore? Che cos'è che non va nelle politiche commerciali che vogliono favorire il consumatore? Ma fermo restando che lo sciopero non è contro le iniziative degli sconti, perché ci mancherebbe altro, se siamo, diciamo, contrari al fatto che gli automobilisti possano avere beneficio, però fatti in modo adeguato. In particolare sulla vicenda Eni, la stessa Eni dichiara che è una vendita sotto costo, che ci perde circa 150 milioni di euro. È chiaro, questo è un elemento che, invece di aiutare un settore già in crisi, ne aumenta le negatività. Se poi valutiamo che dietro Eni anche altre aziende sono andate a seguito, e adesso vediamo che lo sconto viene chiesto al gestore di partecipare ai costi, vi ricordo il margine intero del gestore sono 4 centesimi, quando gli si chiede di partecipare con 2 centesimi vuol dire dimezzare il margine, se poi il cliente paga con la carta di credito, vi ho detto quanto costa, è insostenibile. Ecco. Questo però è una parte della problematica rispetto alle compagnie petrolifere, che non stanno rinnovando gli accordi economici, che stanno scaricando sui gestori sempre più i costi, tra l'altro, ripeto, con questo calo di consumi che ormai ha due cifre, davvero stiamo assistendo alla chiusura degli impianti, e dunque questo è un grido forte d'allarme affinché si cominci a mettere mano a un settore che è vitale per il Paese, ma che sta vivendo una difficoltà incredibile. Ci conferma che vi vedrete venerdì al Ministero dello Sviluppo Economico con le compagnie? Ve lo confermo, domani, tra l'altro sì, infatti, domani. Tengo anche a ribadire che per noi lo sciopero non è un fine, a noi non piace scioperare, non vogliamo... No, anche perché con tutto il traffico di auto che ci sarà nei prossimi giorni, per voi chiaramente sarà anche una rinuncia importante, è chiaro che noi... Per noi è uno strumento, per cui l'incontro di domani chiaramente ha un significato molto importante affinché si possa dare soddisfazione a questo grido di fatemi dire, di disperazione della categoria. Abbiamo un interlocutore nel sottosegretario De Vincenti molto attento che ha già dato prova nelle vicende precedenti di saper capire e dunque intervenire nella maniera adeguata. Insomma, noi confidiamo che ci possa essere un intervento che faccia sintesi da parte del governo. Grazie Luca Squeri, ci riaggiorniamo magari domani se vorrà con lei. Io intanto la saluto, le auguro buona giornata e buon incontro anche per domani. Grazie a voi. Grazie. Luca Squeri era il presidente della FIGIS, che è la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, appunto aderente a Confcommercio. Fabio Bertolotti, direttore di Assogoma, cosa ne pensa di questa agitazione? Ma sembrerebbe più che lecita e logica e condivisibile da un punto di vista del consumatore. Insomma, noi siamo soggetti ormai a dei costi, dei prezzi del carburante particolarmente elevati. Il consumatore credo che faccia fatica a comprendere il perché, a seconda del luogo dove fa benzina trova dei prezzi che sono enormemente diversi, soprattutto il fine settimana, e quindi insomma è bene che si sappiano anche le motivazioni per cui queste figure professionali, che non si divertono affatto a farlo, qualche volta devono abbassare la serra cinesca appunto del proprio impianto. Allora, ci racconta un po' quest'anno la campagna Vacanze Sicure che conducete periodicamente con l'ausilio, con la collaborazione appunto della Polizia Stradale. Che cosa vi ha portato a scoprire insomma che gli italiani, allora sì, diciamo che per quello che riguarda magari la tappezzeria dell'auto interna sono molto attenti, però insomma sul pneumatico un po' meno, come mai? Il prodotto in sé non è particolarmente entusiasmante evidentemente per il consumatore medio, poi ci sono evidentemente anche tanti cultori del pneumatico, delle performance e quant'altro, però in linea di massima il discorso è questo: ormai abbiamo fatto queste indagini dal 2003 ad oggi, sono state controllate circa 100.000 vetture, quindi un campione importante in tutte le regioni d'Italia, e bisogna guardare in faccia la realtà. La macchina appoggia su quattro gomme, lo spazio di appoggio è grande quanto una cartolina, tutti ne hanno la perfetta conoscenza, la competenza, la consapevolezza, però a questo punto c'è un grande disinteresse. Quest'anno le regioni indagate sono state la Lombardia, la Campania e la Sicilia. 2 macchine su 10 erano con non conformità legate al pneumatico. 2 su 10 sono una quantità importante. Se pensiamo che in Italia ci sono 37 milioni di vetture, fatti i conti del 20% di quello che può essere 37 milioni, abbiamo 7 milioni, 6 milioni di vetture che viaggiano con pneumatici che sono non in regola. E cosa vuol dire non in regola? Tra l'altro, mi scusi, come ha fatto la Polizia Stradale questi controlli? Si appostava in determinati luoghi? Sì, allora cioè, spiegavano che non era che era un controllo, diciamo, allora, con diciamo finalità statistiche, possiamo dire così. Allora, la polizia deve fare il proprio mestiere, quindi laddove trova delle non conformità al codice della strada, evidentemente non può, se non fa, che commettere omissione di dati d'ufficio. Ma al di là di questo, l'indagine era un'indagine assolutamente campionaria, quindi senza avere un riferimento statistico preciso. Quindi appostati per normali controlli, poi magari compilavano delle fatti, schede a parte. Che in teoria dovrebbero essere sempre fatti sulle gomme, sui pneumatici, e avevano dei questionari specifici. Questi questionari poi sono stati raccolti, mandati al Politecnico di Torino, che a sua volta li ha elaborati. Di conseguenza poi abbiamo dei dati ormai con il Politecnico di Torino, con quello di Milano, di Firenze. Insomma, abbiamo questo tipo di collaborazione. Ahimè, abbiamo degli elementi, delle percentuali di non conformità che sono particolari. Uno per tutto è il pneumatico liscio. Ce n'è una quantità che mediamente nell'ultima tornata è stata del 3%, però Milano per esempio brilla per non controllo, non attenzione, arriva quasi all'8%, cioè sulle macchine controllate a Milano c'era l'8% che avevano pneumatici lisci, una quantità veramente elevata che rappresenta e può rappresentare un problema, a maggior ragione in occasione di un'acquazzone, una curva, e quello che può succedere lo capisce chiunque che ha già provato quell'ebbrezza, che non consiglio a nessuno. E poi ci sono altri elementi di non conformità importanti, come il pneumatico danneggiato, cioè quei tagli, quelle bozze, quelle ernie, quei danneggiamenti, rigonfiamenti visibili ad occhio nudo che stanno sul fianco. Ne sono stati ritrovati un 4% dei veicoli in queste condizioni. Poi ancora una volta Milano e Sondrio hanno percentuali che sono quasi doppie, il 7%. È abbastanza, diciamo, ricorrente nelle varie province indagate situazioni di stranezze. A Milano, attenzione, io sono milanese, quindi non è che non voglio assolutamente puntare il dito contro la mia città, poi per carità ci sono altre province che brillano per sono altre più virtuose. Sì, che siano più virtuose, altre che brillano per altre non conformità, come nel caso di Avellino, dove il pneumatico non omologato, che mediamente si attesta attorno al 4%, non omologato vuol dire un pneumatico che non ha controllato nessuno, cioè sono questi prodotti che arrivano da paesi terzi, che non si sa. Abbiamo anche quindi abbiamo una sorta di contraffazione di tarocco d'autore, anche della gomma. Anche per quanto riguarda i pneumatici non esiste solo il coccodrillo con la bocca aperta o un po' più aperta, ma esiste anche, ahimè, da poco tempo, da un paio d'anni a questa parte, 3 anni, ne abbiamo scoperto 5 anni fa sulle moto, più recentemente sul vettura. C'è un fenomeno del non omologato che a Avellino raggiunge addirittura quota 10%. Allora, questo ci porta naturalmente immediatamente, Bertolotti, alla prossima considerazione. Io capisco che per qualcuno sia anche questione di disinteresse, di sciatteria, sicuramente magari possono essere anche molto le donne che non fanno controllare le gomme, che si dimenticano che c'è la differenza fra il pneumatico estivo e quello invernale. Credo che per molte famiglie oggi sia anche una questione di fondamentale rilevanza economica. Non tutti, credo, si possono permettere la doppia dotazione di gomme in casa, per cui come si fa? Naturalmente credo che un cambio non è che si tratta di cambiare qua il vestito e quindi fare il passaggio dalla stagione invernale a quella estiva e viceversa, è una spesa un po' più impegnativa. Assolutamente, il costo di un treno di gomme è sempre un costo importante, quindi va valutato con attenzione. Proprio per questo le indicazioni sono quelle di prestare attenzione a cosa uno va ad acquistare, nessuno si faccia abbagliare da un prezzo estremamente conveniente, perché probabilmente dietro si trova e si cela situazioni strane tipo non omologazione e quant'altro. In questo momento sono stati riscontrati una quantità enorme di pneumatici invernali, addirittura in campagna in Sicilia le percentuali a Ragusa arrivano al 17,5%. Francamente non è certo questa la condizione ottimale, che questo proprio va a danno del consumatore, perché il consumatore, premesso che non c'è un problema di pericolo e di sicurezza stradale, che è consentito a termini di legge impiegare sia estivi che invernali per tutto l'anno, però chi impiega pneumatici invernali durante questo periodo sia certo, deve essere assolutamente consapevole che li consumerà prima, quindi a questo punto poi lo dovrà sostituire prima, quindi con un danno economico, ma certamente produrrà anche un maggior consumo in termini di carburante, e in questo momento non è certo conveniente per nessuno. Certo, diciamo che per ogni stagione sarebbe il caso intanto di fare, come dire, un preventivo mentale di quelli che saranno gli impegni anche automobilistici nel corso dei mesi, quindi in modo tale da valutare se effettivamente questo cambio è conveniente, se si immagina di fare, che ne so, una vacanza in montagna che magari in passato non si è mai fatta, è chiaro che forse vale la pena fare il cambio, se invece si rimane in città. La canzone ufficiale mi deprime, perché quando io andavo a scuola andavo in colonia, in autobus, la cantavamo in maniera diversa, Bertolotti, la macchina del capo, un buco nella gomma, la vogliamo riparare con la cicingomma, dicevamo noi. La cicingomma. con la cicci in gomma, che non il chewing gum, che è più nobile. Però insomma il tema di cui parliamo è questo, l'auto, l'automobile. Partiamo con l'auto in ordine per le vacanze, perché naturalmente partiamo tutti più tranquilli, ne va della sicurezza stradale, quindi anche della sicurezza complessiva della famiglia e degli amici che viaggiano con noi, ma anche di tutti quelli con i quali viaggiamo in strada e in autostrada, chiaramente in relazione alla località che sceglieremo. Stiamo parlando di questa indagine che ogni anno a Sogomma con Fabio Bertolotti conduce con la Polizia Stradale. Abbiamo sentito che molti automobilisti non sono tanto attenti nella cura della propria auto, soprattutto per quello che riguarda appunto le gomme. Non si passa da una stagione all'altra, dalla gomma invernale a quella estiva e viceversa, con grande agilità, perché è un'operazione che naturalmente costa, ma c'è anche un po' di sciatteria e qualche disattenzione. Detto questo, oltre alle gomme, naturalmente tutta l'auto deve essere a posto, e allora noi ci faremo dare delle indicazioni questa mattina da Antonio Miele, presidente Confartigianato Autoriparazione, che saluto. Miele, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Ha un cognome molto dolce, quindi naturalmente lo sia anche con i nostri ascoltatori, e non ci spaventi, soprattutto perché in molti magari si accorgono solo prima di partire di andare a fare un piccolo tagliandino preventivo all'auto, un check-up, e magari si imbattono anche qualche volta, perché lei lo saprà, Miele, in magari così qualche autoriparatore un po' poco serio, che proprio in quel frangente scopre tutti i danni possibili e immaginabili all'auto. E quindi, insomma, magari il bilancio prima di partire si appesantisce anche per colpa di questo controllo che dobbiamo fare per ragioni di sicurezza. Ci dice che cosa dobbiamo fare, insomma, prima di partire, per partire con l'auto a posto? Intanto la prima cosa è diffidare degli autoriparatori poco affidabili, quindi è la prima cosa da fare. Però al di là di questo, io penso che un check-up prima di mettersi in movimento per le vacanze vada fatto, quindi, ma anche perché poi se viene fatto presso una rete di officine autorizzate, diciamo, noi teniamo la nostra linea di Confartigianato e i costi sono risicati, e quindi però ci mettiamo in condizione di poter viaggiare in modo tranquillo. Allora, oltre all'olio, che naturalmente è il minimo sindacale, che sia in quantità sufficiente, e anche le gomme gonfiate appunto nella misura giusta, poi questa magari è un'indicazione che ci dà Bertolotti, che cos'altro dobbiamo controllare? Ma intanto la prima cosa è guardare i freni, che è la parte essenziale. Fare un check-up al motore prima di partire conviene, ci riferiamo poi alle cose essenziali, tipo la cinghia della distribuzione, la cinghia della ventola, che sono quelle che maggiormente si usurano. I livelli dell'olio, chiaramente, come diceva lei, quello mi sembra che è pane quotidiano. Anche io che sono una donna lo so, pensi un po' lei, guarda. Però non è solo l'olio del motore, va verificato prima di mettersi in viaggio anche l'olio del cambio, l'olio dei freni, quindi questi sono i liquidi del radiatore, di raffreddamento, che sono la parte essenziale dell'automobile. Quindi, però queste cose comunque vanno verificate, perché molto spesso l'automobilista è distratto e nella distrazione poi cerca di risparmiare, però alla fine va a spendere molto molto di più nel momento in cui si creano i danni. Quindi questo, allora, sono consigli minimi che secondo me un buon automobilista dovrebbe conoscere, dovrebbe sapere. Quindi chiaramente non aspettare all'ultimo momento, perché poi c'è la famosa corsa, quindi a fare il check-up. E quindi poi si trovano intasati pure gli autoriparatori. Esattamente, non ce la consegnano in tempo, quindi magari dobbiamo andare da quello che ci fa un prezzo più alto perché abbiamo fretta. Un'altra cosa alla quale io non penso, ma per fortuna ci pensa sempre il mio benzinaio di riferimento, che ce l'ho vicinissimo a casa, ormai siamo diventati amici: il liquido detergente dell'impianto lavaparabrezza. È essenziale, il liquido è una cosa essenziale, ma non solo il liquido detergente, anche le spazzole dei tergicristalli comunque vanno sostituite, vanno guardate se sono funzionando oppure devono essere cambiate, perché la visibilità, come lei può capire, è fondamentale. Poi speriamo che ormai l'ondata di maltempo è passata, però non bisogna sempre mettere in conto che una pioggia, un acquazzone ci può essere lungo la nostra strada, e quindi no, tra l'altro guardi. Proprio del tempo parlavamo prima con Bertolotti prima di iniziare la trasmissione, perché entrambi abbiamo reciprocamente ammesso che il cambio dalle gomme invernali a quelle estive l'abbiamo fatto praticamente a metà giugno. Io l'avevo già confessato anche in diretta. Non si può dire che lei l'ha fatto così tardi, Bertolotti. Un po' prima. D'altronde per tutto maggio e metà giugno è piovuto sempre, per cui io guardavo le previsioni del tempo, dico vabbè, vado la prossima settimana, e ho continuato a rimandare. Un'altra cosa, Miele, molto importante, perché devo dire che io a questa cosa ci ho pensato proprio leggendo tutti gli accorgimenti che Marco Lombardo mi ha preparato da ricordare in trasmissione. Il corretto uso del climatizzatore in auto, ma quanto incide questo nel consumo della vettura? Allora, il climatizzatore sicuramente incide, quindi c'è un assorbimento di potenza in più, diciamo, rispetto alla marcia normale, però comunque noi sappiamo che oggi le macchine sono dotate di tutte di della climatizzazione, guai se non ci fosse, dico io, perché, perché in alcuni giorni certamente non si riesce proprio a farne a meno. Soprattutto chi lavora con l'auto, immaginiamo a star sempre sotto il sole a 30-35 gradi, insomma è chiaro che noi abbiamo avuto non ce la si può fare. Giorni scorsi, che se non ci fosse stata l'aria condizionata in macchina sicuramente non si andava da nessuna parte, però pure questo il climatizzatore va verificato, va controllato il livello del gas all'interno dell'impianto, va verificato il filtro antipolline per quanto riguarda il funzionamento buono dell'impianto di climatizzazione, e va verificato tutta la parte, diciamo, che riguarda l'aria condizionata, perché non è pure quella è una parte che va verificata. Senta Miele, per fare tutti questi controllini standard, insomma, diciamo di routine, ammettendo che l'auto sia posta, abbia bisogno del rabocchino, del liquido per il parabrezza o dell'olio, quanto se la deve tenere in officina un suo collega? Ma no, diciamo, per fare questa diciamo normale manutenzione, il controllo si effettua pure in queste cose che abbiamo detto insieme, si vanno a verificare in giro di un'ora e mezza, non più. Però se ci sono altre cose da fare, è chiaro, poi cambia completamente. Esatto, però non so, proprio lei, come ha giustamente detto, la corretta manutenzione, tempo deve impiegare un operatore appunto di un'officina. Rimanga con noi, Miele, poi ritorno da lei anche per altre indicazioni e suggerimenti da dare ai nostri ascoltatori. Io però, siccome ci sono sulla questione pneumatici molti ascoltatori che vogliono intervenire, quindi Bertolotti adesso la faccio intervenire con gli amici che ci seguono e che ci chiamano all'800 24 00 24. Elio da Milano tocca un punto che Bertolotti ha sollevato poco fa: gomme contraffatte. Questa è veramente incredibile stamattina, non l'avevo mai presa in considerazione, ma veramente ogni giorno a Salvadanaio, che conduco da 9 anni, Bertolotti, ogni giorno ne imparo una. Elio, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori, naturalmente. Grazie. Io ho un quesito, siccome io ho degli amici gommisti e anche persone serie, ultimamente, speriamo che siano tutte, no, anche persone, diciamo che la maggior parte, insomma, lo spero. Ho sostituito le gomme anteriori della mia Peugeot. Sì. E lui mi ha proposto appunto delle gomme che provengono da paesi dell'est. Mamma mia, Bertolotti, già gli sono venuti i brividi. Gli ho detto di no. E ho montato le gomme originali che mi sono trovato molto bene, che non dico la marca per la pubblicità. Mi dice che differenza di prezzo ci sarebbe stata, Elio, fra prima e seconda scelta? Guardi, le assicuro, nessuna. Erano delle copie identiche ed erano perlomeno il 60% in meno, una cosa incredibile. Attenzione. Vabbè, lo dice lei, ma lei è in grado di poter dire che fossero identiche? Cioè lei ha la competenza? Ecco, allora, la misura esteticamente, naturalmente, esteticamente il battistrada, io sono abbastanza esperto per cui non sono un novellino, esteticamente erano identiche il battistrada, anzi addirittura assomigliavano a una nota marca francese, non dico altro. Vabbè, l'omino, quello grasso, ecco, diciamo così. Io le dico una cosa, il problema consiste, io che sono un esperto e provengo da un settore, adesso sono diciamo così, ormai ho i miei anni di lavoro, però provengo dal settore carrozzeria, per cui non sono... È difficile gabbarla in questo settore. Mi domando e dico, ma chi è che tutela gli automobilisti inesperti, una signora, una donna? Sì, Elio, se fossi andata io, a me avrebbero potuto vendermi qualunque cosa, perché sicuramente non mi metto a controllare, non sarei in grado di distinguere. Sarò breve perché so che avete molte telefonate, sì. No? Io le volevo chiedere, ma c'è qualcuno che controlla seriamente queste cose qua? Eh beh, c'è Assogoma che qualcosa farà in questo senso. Elio, sentiamo un po', che cosa fa l'organizzazione di categoria? Allora, Assogoma non può fare un controllo sul punto vendita perché non siamo la forza dell'ordine preposta, però il fenomeno lo conoscete, lei prima ce l'ha detto. Assolutamente, il fenomeno lo conosciamo, l'abbiamo segnalato. Da dove vengono queste gomme extracomunitarie, mi viene da dire? Non sono gomme extracomunitarie. Vabbè, adesso ho detto sono gomme che non sono prive di omologazione, cioè sul pneumatico, sul fianco esiste un bollino, cioè come un cerchio con all'interno una E, oppure un rettangolo con una E più piccola seguita da un numero che è il paese di riferimento che ha rilasciato l'omologazione, e poi un codice numerico a 6 o 7 cifre. Questo su tutti i pneumatici vettura. Quindi se manca questo riferimento, quel prodotto non è conforme alla circolazione. Chi è che fa l'omologazione? L'omologazione è, diciamo, i test li fa un'autorità competente, né in Italia il Ministero dei Trasporti e poi i vari altri ministeri dei trasporti. Comunque sul nostro sito www.pneumaticisottocontrollo.it ci sono anche tutti questi riferimenti. Benissimo, sull'omologazione. Li mettiamo subito sul nostro profilo Facebook, così almeno e quindi si possono andare a divertire. Può vedere, può essere asiatico. È vero che la maggiore quantità di non conformità è proprio stata riscontrata nei paesi su prodotti da paesi asiatici. In questo senso sono cominciati i controlli proprio a seguito di questo fenomeno che è stato scoperto lo scorso anno in Liguria. In Liguria abbiamo trovato il 17% in alcune province di pneumatici non omologati. Sono anche quelli venduti al supermercato, Bertolotti? Possono essere venduti da qualsiasi perché parte. Perché c'è chi va lì, li compra, poi va da un carrozziere, gli da un gommista, gli dice me li cambi, mi metti queste. Attenzione però che dal luglio di 2 anni fa il mondo è cambiato. Cioè se prima il codice della strada non consentiva solo la circolazione con pneumatici non omologati, quindi praticamente era punito solo l'ignaro automobilista, oggi è vietata l'importazione, la detenzione, il montaggio e la vendita di questi prodotti, quindi si può procedere al sequestro del materiale. E allora questo gommista che le ha proposte dove le aveva prese? Ma non lo so se queste gomme erano o non erano omologate. Se fossero state omologate certamente ma erano possono essere di provenienza asiatica ma omologate? Possono essere di provenienza asiatica e quindi avere anche l'omologazione, quindi hanno tutte le carte in regola per poter essere vendute. La differenza di 60-70% rispetto a un premium brand è troppa e quindi vuol dire che c'è qualcosa di strano, che l'omologazione potrebbe anche non esserci. Vuol dire che c'è qualcosa di strano, dopodiché apparentemente sono simili perché il disegno è magari copiato, ma il contenuto delle mescolanze, ce ne sono da 15 a 20, è completamente diverso, quindi magari quel prodotto dura 10-15 mila chilometri. Che bello, il contenuto delle mescolanze è fantastico, quindi la composizione, il blend, come panettieri, questo impasto, ce ne sono 17, dai 15 a 20 tipi che vengono messi in un singolo pneumatico e quindi insomma la composizione è unica. 30 secondi, Angela dalla provincia di Como, poi andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio, oltre a tutti quelli che noi stiamo dando questa mattina. Angela, buongiorno, non vedevo l'ora di sentire una donna su questo argomento. Allora, giusto sabato dovrei andare a cambiare le gomme del mio Golf familiare pensavo di mettere le ecogomme che effettivamente costano decisamente meno di tutte le altre. Allora, adesso scopriamo. Cosa combino? Combino qualcosa di buono o no? Questa stupida autostrada del sole, com'era logico aspettarsi piove, con la pioggia l'automobile sbanda, una vocina dentro dice rallenta, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, infine i fari mi si sono spenti, perfino i fari mi si sono spenti. Treni che mi schizzano accanto, lo specchietto che si riempie di bianco, che acceca, una fatica a rimanere sereno, una fatica troppo grande, temo, la testa è pesante, pesante, pesante, pesante, sembra fatta di roccia, di benzina solo qualche goccia, che guaio. Questa mattina veramente le abbiamo trovate tutte per vivacizzare la nostra trasmissione, persino Daniela Silvestri con Datemi un benzinaio, una canzone di tantissimi anni fa, per insomma il mio Marco Lombardo bravissimo assistente al programma, le trova tutte per divertirci. Noi non abbiamo un benzinaio, abbiamo avuto il sindacato dei benzinai prima, che ci ha spiegato le ragioni dell'agitazione, appunto, che porterà a chiudere le pompe di benzina il 3 e il 4 agosto, il 4 e il 5 scusate, all'inizio era 3, 4, 5, adesso è di due giorni l'agitazione, a meno che non venga annullata domani, quando appunto i sindacati si incontreranno con le compagnie petrolifere al Ministero dello Sviluppo Economico. Però noi non abbiamo, vi dicevo, un benzinaio, abbiamo avuto il sindacalista, ma abbiamo un amministratore delegato di prezzibenzina.it che è Paolo Rigamonti, che saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, noi intanto stiamo dando tutti i suggerimenti del caso alle famiglie che ci ascoltano per partire con l'auto a posto. Se poi quest'auto potesse avere il serbatoio pieno, come dire, senza aver mandato in malora il portafoglio, sarebbe anche meglio. Poi mi faccio raccontare da lei come funziona prezzibenzina.it. Rigamonti, eravamo però rimasti in sospeso con la domanda di un'ascoltatrice, Angela da Como, che siccome deve cambiare le gomme proprio sabato, Bertolotti è intenzionata a mettere delle ecogomme, gomme verdi, che non è il colore che avranno queste gomme naturalmente, perché avranno un colore tradizionale. No, sono delle gomme che hanno una più bassa resistenza al rotolamento, cioè tenute correttamente, cioè opportunamente gonfiate, perché il primo passaggio per tutti i tipi di gomme è questo: se uno non gonfia le gomme, sappia che ha un consumo maggiore in termini di benzina da un minimo del 3 fino al 15% in più, e di questi tempi non è poca cosa. Poi ci sono delle gomme che sono in grado di vincere la resistenza al rotolamento meglio di altri, e di conseguenza hanno un ridotto consumo in termini di benzina, mantenendo sostanzialmente invariate le altre prestazioni. Quanto costano rispetto a quelle normali? Un po' di più, parlando, un po' di meno? Tecnicamente diciamo isocosto, cioè il costo è assolutamente paragonabile, non ci sono grandi differenze, ormai sono moltissime. Quindi è una buona scelta. Sì, anche queste hanno versione invernale estiva? Cioè, allora, questa è una tipicità del prodotto estivo. Per l'invernale è un altro discorso. Non vale, diciamo, la logica della tenuta, dell'aderenza, ma chiaramente anche gli invernali possono essere più o meno performanti in termini di rolling resistance. Un'altra domanda per Antonio Miele, presidente di Confartigianato Autoriparazione. C'era un ascoltatore che prima avevamo in linea, poi è scomparso, però faceva un'osservazione molto intelligente. Diceva, Franco da Verona, la maggior parte delle auto che girano non ha le luci a posto e nessuno fa nulla, e di notte danno molto fastidio. Miele, quindi anche quelle bisogna controllare prima di partire, magari portarsi dietro qualche lampadina di ricambio? Sì, va benissimo, è chiaro, quando riguarda l'illuminazione della vettura è fondamentale, quindi fare un controllo delle luci a 360 gradi è importantissimo. Quindi adesso con le nuove tecniche, diciamo, le nuove lampade, diciamo, allo ionio danno maggiore luce, però comunque vanno verificate, sono piccoli accorgimenti che secondo me devono essere effettuati e vanno fatti prima di partire. Portarsi dietro le lampade può essere un escamotage, però non serve assolutamente a niente, perché oggi su alcune vetture per poter sostituire una lampada bisogna smontare un paraurti. Ah sì, ho la Lancia Y, guardi, effettivamente mi è successo una volta in autostrada e praticamente volevo farmi aiutare da un gommista di un distributore, no, appunto, che era disponibile, ma ha detto arrivederci e grazie, e non le dico che viaggio che ho fatto, era anche sera. Detto però questo, è opportuno portarle dietro, poi in caso di necessità se ricambio è facile. Però vi ripeto, è importantissimo effettuare anche questo controllo dell'impianto di illuminazione. Sì. Io volevo aggiungere una cosa, certo, rispetto a quello che diceva Bortolato. Condivido quella che è l'impostazione per quanto riguarda il discorso dei pneumatici fuoriusi, essendo io pure responsabile del settore. Io faccio parte della commissione dei pneumatici fuoriusi, stiamo discutendo presso il Ministero dell'Ambiente di queste problematiche, e chiaramente non è solamente l'acquisto, perché quello poi diventa cosa facile, ma diventa intanto prendere il pneumatico che ti mette in sicurezza sulla strada, e poi bisogna pensare pure a quando poi alla fine della morte del pneumatico, quando deve essere smaltito, perché ci sono alcuni pneumatici non possono essere recuperati, perché chiaramente, come diceva Bortolotto, non hanno il famoso codice di appartenenza, e quindi diventa un problema pure per smaltirle. E vabbè, quello però è un problema vostro o anche del consumatore, voglio dire, perché tanto non è che ce le riportiamo a casa una volta che le abbiamo cambiate, quelle vecchie, no? Quindi ve la dovete vedere voi, purtroppo. Il consumatore, le officine, diciamo, sono obbligate a a recuperarle, però comunque certo, ci sono delle problematiche a cui bisogna certo gestire. Allora andiamo a Paolo Rigamonti, prezzibenzina.it. ancora buongiorno. Questa benzina non ci ha fatto dormire nei mesi passati, adesso un pochino verso il ribasso, i carburanti sono ritornati, ma certo che anche queste super iniziative di alcune grandi compagnie petrolifere che hanno appunto, come dicevo all'inizio, anche un po' sparigliato le carte fra gli operatori e gli addetti ai lavori, perché qualcuno ha parlato di pratiche commerciali un po' discutibili. In ogni caso, qualche compagnia petrolifera ha le spalle abbastanza grosse da poter gestire anche queste diminuzioni di prezzo praticate nel fine settimana e quant'altro. Detto questo, non è che tutti abbiamo a disposizione magari quella compagnia sotto gli occhi. Allora, voi che cosa vi siete inventati con questa applicazione, Rigamonti? Noi attraverso la nostra applicazione segnaliamo quali sono i distributori che aderiscono alle promozioni che ormai vengono chiamate le promozioni del weekend e che dureranno fino a inizio settembre. Siccome non tutti i distributori di una determinata compagnia petrolifera aderiscono all'operazione, noi ci limitiamo a segnalare quali di queste aderiscono o meno all'operazione. Per cui tramite la nostra applicazione, tramite il nostro sito web, è possibile trovare dove viene praticato il prezzo più basso. Tra l'altro il vostro sito viene animato proprio anche direttamente dalle segnalazioni degli utenti, giusto? Certo, il concetto alla base del servizio è proprio quello. Prezzi benzina non è altro che la condivisione dei prezzi tra gli utenti, ossia ogni segnalazione del singolo aiuta tutti gli altri a scegliere il distributore di benzina più economico. Qual è il più economico in tutta Italia in questo momento? Ce l'ha sotto gli occhi la classifica dei più bravi Rigamonti o dei meno bravi? Gliela faccio cercare un attimo, così magari. No, guardi, non c'è problema, dovrebbe essere sempre stato un Iperself nel Veneto. Ah, ecco, sì, effettivamente là, forse quel famoso dove si creano delle file pazzesche perché riescono a praticare. Certo. Sì, ogni tanto compare questa notizia sui giornali, effettivamente. Allora, ricordiamo il sito al quale possiamo trovarvi, Rigamonti. Allora, il sito si chiama prezzibenzina.it e le applicazioni gratuite che possono essere utilizzate tramite smartphone, iPhone e Android si chiamano semplicemente Prezzi Benzina. Benissimo. E attraverso sia il sito, attraverso anche le applicazioni è possibile aggiornare i prezzi, addirittura inviare le foto dei distributori e soprattutto vedere qual è il distributore più economico nelle vicinanze. Io ricordo anche altre due applicazioni, pompebianche.it e I Need Fuel, credo che sia anche questo .it, perché anche queste possono essere utili appunto per i nostri ascoltatori. Ancora sulle gomme, prima di chiudere, è stato il tema più gettonato, Bertolotti, stamattina, che cosa devo dire? Volevo sentire Emiliano dalla provincia di Parma. Buongiorno, rapidissimo Emiliano, grazie. Rapidissimo, voglio raccontare, buongiorno a tutti, raccontare la mia esperienza. Io ho avuto due macchine recentemente, trazione posteriore, quindi una classe Mercedes familiare, una BMW ultima serie. Sono macchine che senza gomme termiche non si muovono dal garage, nel senso che basta un centimetro di neve e proprio non ci si muove. Questo balletto del cambio delle gomme mi ha un po' stancato, sinceramente, perché c'è da perdere due volte all'anno mezza giornata tra una storia e l'altra, portandosi le gomme, sporcandosi le macchine e tutto il resto. Allora ho cercato di capire quale poteva essere la soluzione che andava bene per tutto l'anno, esclusa quella delle gomme estive, perché d'inverno non giri. Ho provato sulle gomme invernali, mi sono consultato con il mio gommista e devo dire che ho fatto un'esperienza in base alla quale con le gomme termiche si va benissimo tutto l'anno, le prestazioni sul bagnato sono migliori anche d'estate e in più le dirò che io ho provato due marche diverse di estive e di invernali sulle due macchine diverse e le gomme invernali hanno durato di più tutto l'anno. Pur avendole mantenute su d'estate, è chiaro che se uno vuol fare l'autostrada della Cisa a 200 all'ora facendosi ritirare la patente e prendendo 20 punti o 40 punti di penalizzazione, le gomme invernali d'estate non vanno bene, ma siccome c'è un codice della strada da rispettare e siccome le prestazioni delle gomme invernali sono ottime anche d'estate, Io ho adottato questa soluzione, tengo le gomme, bisogna comprare delle buone gomme invernali e si possono tranquillamente mantenere tutto l'anno. Grazie Emiliano. Allora Bertolotti diceva no. Però a 20 secondi Bertolotti la controarringa a Emiliano. Ma nessuna controarringa, se l'automobilista è contento così ne prendiamo atto. Il consiglio non può essere questo, perché non sappiamo neanche il tipo di gomma, hanno prestazioni diverse. Il consiglio è utilizzare pneumatici estivi in estate e pneumatici invernali in inverno. Questo sempre e comunque, se uno in questo momento utilizza pneumatici invernali, in linea di massima consuma di più. Grazie, benzina. Grazie molte a Fabio Bertolotti, Antonio Miele, Paolo Rigamonti e Luca Squeri per essere stati con noi. Torniamo domani, buona giornata.